9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 28 maggio, oppure buonasera, perché io dimentico sempre che poi molti ascoltano anche in replica la sera, quindi ogni tanto bisogna dirlo per buona educazione e rispetto nei loro confronti, che sono tanti. Allora, oggi ci occupiamo di questa specie di giallo di Agatha Christie delle province che ci accompagna da un bel po' di anni. Molti dicono vanno abolite, io da sempre, ma detto questo, poi ogni volta che si tenta di metter mano succede un po' come ancora questa volta. Allora, ricordiamo che cosa dice Berlusconi, campagna elettorale nel 2008. Quando in Italia si vararono le regioni, era indiscusso il fatto che si dovessero anche abrogare le province. Poi non se ne è fatto niente, credo che si debba andare in questa direzione. E qui colgo l'occasione per dire che, visto che l'abrogazione delle principali province, delle aree metropolitane è anche nel programma della sinistra, io credo che su questo potremmo collaborare per riuscire a togliere di mezzo un cespite di costo notevolissimo. Ora, tre sere fa si apprende che nelle anfratti delle misure di intervento per correzione del deficit tendenziale biennale vi sarebbe anche una norma che identifica un criterio abbastanza singolare per abolire le province minori, province che non devono stare in regione a statuto speciale, e questo si capisce abbastanza, che non devono avere oltre 220.000 abitanti e poi non devono essere confinanti con un paese straniero, come se le province ai confini di paesi europei avessero proprie truppe, radar, aerei, missili, senza i quali non potessimo difenderci da questi barbari che sono gli svizzeri, che siccome hanno la tutela del segreto bancario e hanno tasse più basse delle nostre, evidentemente abbiamo l'idea che abbiamo bisogno delle province da non abolire perché ci devono difendere dai barbari che sono più efficienti di noi. Bah. Noi giornalisti, i colleghi, si misero immediatamente a tentare di capire perché questi singolari criteri, il secondo e il terzo, e capimmo al volo che, per così dire, i 220.000 erano un pochino abilmente congegnati, perché c'erano alcune province del care al centrodestra nel nord, tipo Imperia, la provincia di Scaiola, che ha 220.712 abitanti, guarda caso, e poi province piemontesi come quella di Asti, molto forti, che per Cota, il nuovo governatore del Piemonte, Asti ha 220.156 abitanti, quindi 220.000 come soglia erano abbastanza chiare. Devo dirvi che anche la soglia del non confinare con paesi stranieri è evidente che identifica alcune province care ad alcuni personaggi del centrodestra, visto che per esempio la provincia di Sondrio, che ovviamente confina col barbaro nord, è la provincia del ministro dell'economia, cioè Giulio Tremonti, e vi è la singolarità poi di alcune province, penso in Piemonte, in cui per esempio la provincia di Verbano Cuseo Ossola è protesa il dito verso nord, ha 162.000 abitanti, non sarebbe stata abolita, mentre invece quella sottostante di Biella, che ha 187.000 abitanti, e insieme a Vercelli, che ne ha 180.000, quelle sì. E allora capite che è un criterio un po' singolare, ma di sicuro comunque anche con questi singolari criteri taglia, ritaglia e cuci a proprio vantaggio, diverse province si avviavano, pareva, alla chiusura: quella di Fermo, quella di Isernia, quella di Crotone, quella di Vibo Valentia, quella di Rieti, l'ex provincia dell'ex presidente Melilli dell'Unione delle Province Italiane. E quindi, insomma, un piccolo esempio, un piccolo passo c'era, e io chiedo quindi agli abitanti di queste province, oltretutto, di chiamarci all'800240024 per dire se comunque vedano un passo positivo verso il superamento di questo evento. L'abbiamo detto tante volte, si risparmierebbe sui consiglieri e sui costi vivi della politica, le loro funzioni andrebbero riattribuite alle regioni, è ovvio che è inutile pensare al licenziamento dei loro dipendenti, verrebbero riaccorpate in altre funzioni. Qualcosa si risparmierebbe comunque rispetto a un livello amministrativo di cui spesso, anzi secondo me sempre, non si avverte tutta questa straordinaria importanza. Quindi cittadini di Fermo, Biella, Vercelli, Matera, Crotone, Isernia, Rieti, Massacrala, fateci sapere che ne pensate, anche tutti gli altri. E adesso tentiamo di ricostruire invece che cosa succede con i nostri ospiti dopo questo annuncio, perché mi pare di capire che non se ne fa nulla di nulla, almeno Berlusconi ieri sera ci ha fatto capire che queste parole che abbiamo sentito della campagna elettorale del 2008, non valgono più perché il provvedimento pare che non ci siano nemmeno queste 10, se non che si accende il dibattito e abbiamo con noi alcuni ospiti ai quali chiediamo di farci capire meglio come la pensano. Abbiamo in particolare Giuseppe Castiglione, che è il presidente dell'Unione delle Province Italiane ed è presidente della provincia di Catania. Buongiorno presidente Castiglione. Buongiorno, buongiorno. E abbiamo Sergio Chiamparino, sindaco di Torino e presidente dell'ANCI. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno. Ecco, poi abbiamo Silvio Boccalatte, ma con Boccalatte, ricercatore di Biel e autore del libro la cui tesi è chiara, Abolire le province, io lo saluto. Buongiorno Boccalatte, ci sentiamo tra un po'. Cominciamo dai due presidenti. Castiglione, che cosa è stato questa misura? Una misura comparsa dal nulla, uno scherzo, è un errore, bisogna difendere tutto, è meglio non fare niente? Lei che dice? No, io dico che intanto quando la manovra finanziaria è stata illustrata ad ANCI, UPI e Regioni non si è parlato di abolizione delle province né il governo ha detto che c'era questo famoso articolo. Si è sviluppato un dibattito sulle agenzie stampa e di fatto ieri il Presidente del Consiglio ha confermato che nella manovra finanziaria non ci sarebbe stato nessun intervento di soppressione delle province né tantomeno questa determinazione, rideterminazione sulla base della popolazione. Noi riteniamo, perché siccome non abbiamo fatto mai una battaglia di carattere corporativo, che oggi in Commissione Affari Costituzionali c'è un disegno di legge che è la Carta delle Autonomie, quella è la sede dove si può affrontare in maniera molto serena il tema della rivisitazione delle circoscrizioni provinciali. Nessuno vuole difendere niente, però ci sono luoghi deputati idonei per poter fare un ragionamento sereno. Vabbè, perdoni Presidente, la interrompo, i luoghi idonei sono... Non se ne parla, cioè cerchiamo di essere. Non se ne parla, no, mi può dire la carta, le cose. Insomma, non se ne parla, non ci rompete le scatole, in sintesi estrema, cioè, no? Finanziaria, perché non c'è nessun risparmio, perché quando prevede la soppressione di una provincia da qua a 5, a 3 anni, a 4 anni, è chiaro che non c'è nessun risparmio, quindi non era la manovra finanziaria il luogo idoneo. Presidente, se ogni intervento, se non dà risparmio entro 3 anni, non lo facciamo, no, restiamo fermi, cioè capisce? Allora potrei dirle che con questo criterio... No, le dico anche, intanto e poi c'è una procedura prevista dalla Costituzione, non dalla legge ordinaria. Sì. In Italia se valgono le leggi c'è una procedura prevista dall'articolo 133 della Costituzione che per le revisioni. Bene, la avviamo questa procedura, Presidente. Ma o lei dice non dobbiamo toccare niente. Le dico molto di più. Là c'è il sindaco Chiamparino. L'Unione del Regionale del Piemonte sta avviando una riflessione serena, ma così come stanno facendo tutte le unioni regionali, noi potremmo andare molto oltre rispetto alle 10 province. E noi la prendiamo in parola, quindi ne vogliamo 20, 30 abolite. Come no? E noi la prendiamo in parola. Lei l'ha detto, adesso io la fermo perché lei l'ha detto e spero che non sia per una furbata, lei ha detto e resta a questi microfoni che voi andrete molto oltre, sappia che io la incalzerò da questi microfoni chiedendo agli ascoltatori di Radio 24 di ricordarglielo, di chiamarlo alla segreteria della provincia di cui è presidente, lei ha detto che andrete oltre e quindi non ci prenda in giro. Alt, fermo un secondo perché adesso io do la parola a Chiamparino, sindaco della mia città, per chiedergli, dopo aver ricordato a tutti gli ascoltatori, rendendo atto al presidente dell'ANCI che non è intervenuto dicendo uccidete tutte le province, però ha detto affrontiamolo seriamente sto discorso, e devo dire, poi restituisco la parola al presidente Castiglione, che Castiglione ha detto i comuni, allora se noi siamo inutili, anche i comuni sono retaggi medievali, ma insomma al di là delle polemiche che non mi interessa rialimentare tra Castiglione e Chiamparino, voglio sapere se il presidente dell'ANCI dice è una questione seria, affrontiamola, ecco, al di là adesso della polemica, qual è la proposta del presidente dell'ANCI di fronte a questo tema che appare agli italiani altrimenti sempre una presa in giro, però questa volta non della politica centrale ma di chi fa l'amministratore locale, perché sembra che ogni volta è intoccabile, ecco, che ne pensa Chiamparino? Ma guardi, al di là, se mi permette una piccola correzione, anche la provincia di Vercelli confina con l'estero perché c'è quasi un chilometro di confine con la Svizzera, un chilometro salvifico, direi salvifico. Al di là di questo, ma la mia proposta, che ovviamente c'è un dibattito aperto con l'amico Castiglione, con Lupi, al di là delle battute sulla storia, è semplice. In tutta Europa esiste un ente intermedio, questo non lo può negare nessuno. La mia proposta è che si avvii un processo per trasformare le province in associazioni di comuni a fini generali, vale a dire i comuni si mettono insieme, quindi c'è semplificazione, per gestire tutte le politiche di area vasta. In questo modo le si sgancia dal fatto che le province si trascinano dietro le questure, le camere di commercio, le prefetture, E diventa, e se ne può anche avere di più associazioni di comune più mirate al territorio, ma le funzioni sono svolte dagli stessi organismi del comune. Questo consente anche di ridistribuire in un arco di tempo ragionevole il personale delle province, che ovviamente non si può licenziare, ridestinandolo a nuove funzioni. Questo è il percorso che io suggerisco di intraprendere. E questo percorso, Presidente Castiglione, potrebbe portare in concreto, secondo lei, ecco, io adesso ho animato un po' la faccenda, anche interrompendola, mi perdoni per questo, bisogna fare anche un po' di... Ecco, ma noi abbiamo il tema della modernizzazione del Paese, il tema della modernizzazione delle istituzioni, noi siamo molto interessati. Per esempio, perché il tema nella Costituzione è previsto che lo Stato è articolato, Stato centrale, regioni, province, comuni e città metropolitane, ma perché non partiamo con le città metropolitane? Ci sono delle grandi aree dove, accorpando comuni e province, avremo le città metropolitane. A me sembra che sia già troppo, siamo troppo in ritardo per non affrontare questo tema. Quindi la carta delle autonomie è in commissione affari costituzionali. Assumiamo un impegno, facciamo le cose, non violiamo la legge, non violiamo la Costituzione e ammoderniamo veramente il Paese. Ma veramente pensiamo che 100 milioni, che sono le indennità agli amministratori delle province, possano risolvere i problemi della spesa pubblica. No, non voglio rifare polemica, però lei capisce che i titolari di ogni 100 milioni in Italia ragionano così. Io vedere i magistrati che dicono che si lede la loro indipendenza e scendono in piazza perché gli leviamo il contributo oltre gli 80.000 euro, mi fa rimanere senza parole. La necessità di un governo che era vasta, che in Europa c'è un ente intermedio. Esatto. Però se lei mi dice non toccateci 100 milioni, io scatto. Perché noi dobbiamo toccare tutta la somma dei 100 milioni. Lei può parlarmi sulla voce quanto vuole, ma vede, in questo c'è una differenza di fondo. Perché se io vengo in consiglio provinciale, ed è lei in consiglio provinciale, c'è il presidente del consiglio provinciale, ma se vengo in giunta, nella sua giunta, e pretendo io di parlare quando dico io, lei giustamente mi interrompe, mentre invece nella trasmissione si fa viceversa. Il politico tende a parlarti sopra sempre e comunque per difendere i suoi 100 milioni. No, presidente, perché così io le dico solo che chi è in ascolto pensa che lei abbia torto, mentre invece nel ragionamento istituzionale, poi serio, in quello che accomuna un disegno efficiente di rimettere mano agli enti intermedi e alle autonomie, è ovvio che lei ha ragione, Chiamparino ha ragionissimo. La questione è tempi e modi, però, perché fino a questo momento è diventato sempre una scusa per non mettere mano a nulla, Chiamparino, o altrimenti come si può sperare che questo disegno di efficientamento e razionalizzazione possa fare un passo avanti? Lei ci crede? Vede gli spiragli politici? Come dire, quello che mi lascia più dubbioso di questa manovra è che non vedo linee di riforma. Questa era anche la stessa abolizione di quel numero di province, adesso al di là della provincia di Vercelli, se confina o non confina. Cioè, è che se anche ne abolisce 6 o 7, non è l'inizio di una riforma, anzi è un modo per dire le altre restano lì e non si toccano più. Cioè, io preferisco un discorso che affronti seriamente il tema di ridefinire il ruolo dell'ente intermedio, perché il problema non è quello che è quello che si risparmia subito, ma è soprattutto che un ente che produce spesa e lo produce all'infinito, noi dobbiamo creare delle situazioni che nel medio-lungo periodo risparmiano, ma questo vale anche per i comuni. Aspetti, cioè, io su questo c'ho un ascoltatore che le vuole fare una domanda, Giampaolo da Padova, prego Giampaolo. Sì, buongiorno. Io credo che il tema del dibattito delle sull'utilità delle province vada di pari passo a quello che è il decentramento che le regioni fanno nei confronti delle province. Cioè, alcune regioni hanno attribuito molte deleghe alle province, ad esempio l'Emilia-Romagna, e lì la provincia non è inutile, anzi è utilissima, fa moltissime attività. Secondo, una dimensione come quella provinciale ormai in molti settori come quello urbanistico, ambientale, energetico eccetera è la dimensione minima per fare politiche locali. Quello che è il vero problema secondo me a volte sono proprio i comuni, che sono troppi in Italia, sono troppi piccoli e non hanno più risorse. Quindi Giampaolo dice piuttosto che cominciare dalla provincia il problema è forse cominciare dalla fusione dei comuni, per questo volevo che la domanda fosse fatta a Chiamparino. La sua risposta, sindaco di Torino? Due cose che possono andare avanti insieme, c'è nessun problema, noi siamo favorevoli a incentivare, a favorire le unioni di comuni al di sotto dei 3.000, dei 5.000, quindi su questo è noto, è una posizione, perché è giusto, è ragionevole, si tratta di mettere insieme, non togliamo l'identità ai comuni, ma mettiamo insieme, associamo i comuni per svolgere tutte le funzioni fondamentali. Ma perché questo deve essere in alternativa alla provincia? Io non sono, l'ascoltatore dice una cosa sensata, che è la stessa che ho detto io prima, cioè l'ente intermedio per le politiche di area vasta è indispensabile, ma perché deve essere un ente, come dire, sovraordinato con una propria legittimazione autonoma? Quello che dico io, associamo i comuni, che tra l'altro possono associarsi ai livelli più adeguati per fare le politiche di area vasta, comprese quelle urbanistiche a cui fa riferimento l'ascoltatore. Perfetto, abbiamo Nicola da Rieti, una delle province sospettabili di possibile, se non fosse tutto rientrato, abolizione, visto che i suoi abitanti sono 159.000. Come la pensa Nicola? Buongiorno, innanzitutto io la ascolto tutte le mattine. Veniamo al dunque, stimo, non si preoccupi dei complimenti. La stimo moltissimo, no, volevo solo dire, sono rimasto molto perplesso da quello che la casta è riuscita, come si è ribellata la casta soltanto al pensiero che potessero essere cancellati tutti i loro privilegi. Io ritengo che, siccome se ne parla da moltissimo tempo di cancellare le province, che sono enti inutili, penso che l'unica strada che noi cittadini possiamo adottare sia quella del referendum. Lei che ne pensa? Quindi lei, che pure è di Rieti, dice non solo vorrei abolita anche la mia provincia, ma le altre, è disposto al referendum. Sentiamo ancora altre voci, vediamo diversa la sua, perché in realtà a me sembra, e mi stupisce un pochino, ma devo darne atto a Castiglione e a Chiamparino, che molti degli sms che stanno venendo in realtà sono favorevoli a tenerle le province. Quindi può essere che poi mi sbagliassi nel credere che il sentimento prevalente è quello dell'incredulità di fronte a questo nuovo balletto in atto da due giorni. Sentiamo Hermes dalla provincia di Treviso. Dica, Hermes, lei come la pensa? Sì, buongiorno, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Io mi chiedo perché devo togliere la provincia, che io vivo su una provincia in cui funziona bene, non abbiamo grossi debiti, eccetera, eccetera. Si immagini se dovesse togliere delle province in tutta Italia. Esempio, quelli di Belluno che partono, vanno poi a Venezia, prendono il vaporetto per andare in un ufficio della provincia, perché Belluno ha 225.000, vabbè che confina con l'Austria, però se le togliamo tutte, certi uffici andranno accorporati dentro in regione. Si immagina uno da Cortina o da Lozzo che parte col treno, con la macchina, che va in regione per fare una pratica in ufficio, deve due giorni di tempo, uno per andare e uno per tornare. Quindi io guarderei province che funzionano, province che non funzionano, quanti dipendenti pubblici hanno, eccetera, eccetera, prima di dire le togliamo tutte. Poi si può andare a verificare. No, questo è un criterio, tranne il fatto che naturalmente puoi mettersi d'accordo su cosa vuol dire funzionano o non funzionano. Vedremo se funzionerà quando bisogna definire come si applicano i costi standard a fronte della qualità di servizio per il federalismo e soprattutto nella sanità, perché ogni volta si dice, e poi io continuo a non vederle quei numeri, spero di vederli presto, perché altrimenti continuiamo a procedere per tagli lineari, che non è una bella cosa. Come scrive oggi il professor Luca Ricolfi sulla Stampa, io sono totalmente d'accordo, uno dei difetti ancora puntuali di questo intervento di correzione della manovra pubblica e che non distingue dove bisogna mettere più risorse e dove invece bisogna tagliarle, e cioè dove si spreca di più e dove la stessa organizzazione della presenza pubblica è un fattore di inefficienza e di disincentivo alla parte privata dell'economia, mentre invece vi sono delle parti dove la copertura pubblica è male organizzata e va estesa. Coi tagli lineari, ovviamente, certo, si proteggono i saldi pubblici, ma si peggiora costantemente l'effetto. Il taglio lineare di solito peggiora costantemente l'effetto che la presenza pubblica in quanto tale ha sul resto dell'economia. Eccoci tornati in studio, province sì, province no, con questo criterio un po' singolare che non confinino con paesi stranieri sopra i 220.000 abitanti, no a quelle nelle regioni a statuto speciale. Comunque abbiamo visto che vi è chi rischiava: Biella, Fermo, Vercelli, Ascoli Piceno, Matera, Crotone, Isernia, Rieti, Massa Carrara, Fermo, poi Marcia indietro, non se ne fa più niente. Abbiamo sentito il presidente dell'Unione Province Italiane che ci dice non bisogna toccare nulla, però ci sono sedi in Parlamento in cui potremmo dare buoni segni di collaborazione per razionalizzare l'intero impianto. Abbiamo sentito l'idea del presidente dell'ANCI Chiamparino che ci ha detto anche i comuni possono e devono mettere mano a razionalizzazione, quindi a consorzi di comuni. Sentiamo, continuiamo a sentire come la pensano i nostri ascoltatori e poi sentiremo insieme al professor Boccalatte, che teniamo l'inchiodato da mezz'ora, non l'abbiamo ancora fatto parlare, anche presidenti di alcune delle province che rischiano. Iniziamo a sentire l'opinione di Natalino da Mantova. Come la pensa Natalino? Buongiorno, guardi, io ero assessore all'ecologia della provincia di Mantova per la Lega. Sì. E ho fatto il piano rifiuti e la regione giustamente se l'è preso e l'ha modificato come ha voluto, il piano cave l'ha fatto come voleva lei. Tante cose tecniche dove la politica non c'entra, un conflitto perenne tra province e comune, specialmente quando non sono dello stesso colore politico, e quindi l'abolizione delle province in questo senso io la vedo favorevolmente. Quindi lo dice da ex assessore provinciale, sì, nel senso che dice di fronte a quello che facevo io e tentavo di fare tecnicamente, poi la regione disponeva e provvedeva diversamente, ho capito esatto, bene? Esatto, ma è tutto a cose lecite naturalmente, però voglio dire, e poi perché non dare, non trasformare il sindaco del comune capoluogo in della provincia? Cioè sarebbe veramente la cosa più corretta senza tante menate, lui avrebbe una visione un po' più ampia. Certo Natalino, a me sembra che Natalino porta innanzitutto l'esperienza personale sua e poi quest'ultima proposta sembra un piccolo faro, piccolo ma come sempre quando le luci piccole nel buio servono a dare veramente la rotta. Di grande saggezza, modestissima opinione la mia. Sentiamo Italo dalla provincia di Ascoli, quindi un altro ascoltatore da una provincia che rischia, anche se in realtà è proprio 212.000 abitanti, comunque in teoria dovrebbe essere abolita secondo il criterio di due notti fa. Che dice Italo? Lei difende la sua provincia oppure no? No, sicuramente no. Sicuramente lo sconcerto per questo balletto di vengono tolte, non vengono tolte, anche per i cavilli legati al confine o legati al numero di abitanti che servono a tutelare e mantenere interessi locali. Non penso che sia il caso di, cioè perlomeno io mi sento profondamente indignato da questo tipo di evoluzione. L'altra cosa, l'altra riflessione che volevo fare con lei è il fatto che quando si parla di ridurre comunque il numero della provincia e quindi i posti della politica che servono a mantenere fondamentalmente del potere clientelare, perché penso che questo sia l'uso più importante delle province, c'è una grande opposizione fatta anche di discorsi tipo il problema è sempre un altro, il percorso è sempre un altro. E ne abbiamo avuto qualche prova stamattina, sì. E ne abbiamo qualche prova, fermo restando che condivido invece il percorso più razionale di Chiamparino. Grazie, grazie dunque, mi pare che stiamo riequilibrando. Quando invece sì, le province si sono dovute aumentare non c'è stato alcun problema di dettato esatto costituzionale. Grazie a lei, sentiamo ancora Franz da Trani. Nome, ma lei è italiano o è... No, sono doppio cittadino ormai da 99, anche italiano. Sono svizzero d'origine, vivo da 14 anni in Puglia e devo dire che sicuramente voi l'avete detto, le province grosse non rischiano, anche perché qua abbiamo adesso la Batte, sarebbe Parletta, Andria, Trani, che sono tre comuni che in fondo fanno più di 250.000 abitanti e parliamo solo di tre comuni nella Batte, no? E la mia riflessione seconda è praticamente in Svizzera abbiamo iniziato con tanti comuni piccoli, che sono anche in Italia sicuramente tantissimi comuni, abbiamo iniziato a unirli, per esempio un certificato civile di matrimonio, iniziavamo ad andare in altri paesi accanto a farlo lì e risparmiando. E quindi lei dice consorzi di comuni, ma sulle province lei dice le aboliamo oppure le uniamo? Sulle province, sinceramente detto, sì, sicuramente si sente parlare anche stamattina con voi. Che ma lei non ci crede. Sono province piccole, però io, anche per me, come ha detto il parlamentare, sono pochissime province che possiamo parlarne, perché ne abbiamo in Puglia dei comuni grossi, che siamo abitati a Trani, per esempio, a 55.000 abitanti, Parletta ne ha 90.000, quindi sicuramente il risparmio è limitato. Grazie a Franz, devo dire che fa un po' impressione sentirla parlare con questo accendo, dire noi qui abbiamo pari strani, è un po'. Però è molto bello l'idea che, come si vede, poi l'Europa non è solo un'idea, funziona davvero, e con questo accento non propriamente pugliese, vederla difendere naturalmente i livelli amministrativi della Puglia è una cosa che mi ha molto scaldato l'animo, non divertito, molto scaldato l'animo, perché ci sono delle buone ragioni per cui dalla Svizzera si possa trasferire in quella meravigliosa regione che è la Puglia. Domenico, ancora dalla provincia di Salerno, come la pensa Domenico? Beh, buongiorno dottor Giannino. Allora, per quanto mi riguarda andrebbero abolite le province. Io ho avuto modo di lavorarci dall'interno. Secondo me ad oggi sono diventati solamente... Lei ci lavorava come dipendente amministrativo o come per esperienza politica? No, come dipendente amministrativo. Sì. Secondo me oggi le province sono diventate solamente un parcheggio per una classe politica. Credo poi soprattutto che siano dei portatori di interesse per politici un po' poi più alto livello, magari il consigliere provinciale oggi aiuta il consigliere regionale a salire, eccetera eccetera, il consigliere provinciale si crea il suo bacino. Va bene, no, non si diffonda nei particolari. Domenico ci ha dato l'opinione di chi ascolta e dice: attenzione, è un parcheggio per politici che non riescono ad avere accesso. Sentiamo alcuni di loro, perché poi bisogna essere anche diciamo così responsabili e seri nel sentire la voce naturalmente dei politici impegnati. Io non faccio, perché non sopporto l'antipolitica che domina spesso, la questione è di capire bene come stanno i problemi concreti. Allora, abbiamo adesso due presidenti di due delle province che sono nel mirino. Cominciamo con Stanislao Zurlo, che è presidente della provincia di Crotone. Buongiorno presidente, grazie di darci questi minuti, la parola a lei. Come ha avvertito intorno a sé il dispiegarsi di questa roba per cui improvvisamente la sua provincia rischiava? Pensa di essere al sicuro e in realtà cosa pensa in generale del riordino? Presidente Zurlo? Pronto? Pronto, mi sente presidente? Male, non sono riuscito purtroppo a sentire bene la domanda. Le dico semplicemente se ci può dire cosa ha pensato nel vedere che improvvisamente la sua provincia rischiava, cosa prova oggi nel constatare che mi pare che non se ne farà più nulla, ma in realtà insomma difende e basta la provincia di cui è presidente, oppure è disposto a metterla insieme a esperienza amministrativa più ampia? No, non si tratta soltanto di una difesa, diciamo, di ufficio, si tratta di constatare che i tagli che venivano proposti in realtà diventavano dei tagli che minimali rispetto, diciamo, alla necessità di risparmio, e che poi le conseguenze pratiche sul territorio erano la mancanza di alcuni presidi in territori particolari, come ad esempio il Crotonese, un territorio difficile, un territorio che è lontano anche geograficamente dalle altre città diciamo che sono province. Quindi io ritengo che alla fine della fiera il risparmio era poco, c'era, perché saltare una provincia significa far saltare una prefettura, un comando del provinciale dei carabinieri. E poi io voglio dire, alcune volte si creano delle sinergie istituzionali, come il caso della mia provincia. Ad esempio, il comando provinciale dei carabinieri è incomodato gratuito su degli uffici della provincia, quindi la provincia, in questo caso la nostra piccola provincia, finanzia il Ministero della Difesa. E la polizia postale, abbiamo dato incomodato dei nostri uffici. Quindi alla fine, secondo me, bisogna un'attenta riconsiderazione delle varie realtà che ci sono, poteva dare dei risultati maggiori, perché o si decide che le province sono inutili, e io penso che non sono inutili, perché sono tante le funzioni, anche oltretutto tante delegate dai trasferimenti dalle regioni negli ultimi anni. E io non lo so, non voglio parlare male di nessuno, però un criterio soltanto di popolazione è un criterio, secondo me, da badilante a cottimo io penso che alla fine le province sono principalmente, al di là delle altre funzioni di carattere ambientale, di ciclo dei rifiuti, di sistema idrico integrato, principalmente strade e scuole. La mia provincia ha 888 km di rete stradale, non so quanto ne abbia la provincia di Prato, penso. Faccio così non perché mi è antipatico Prato. No, ma per fare un altro esempio. Insomma, certo. Vicino a Firenze magari avrà 40 chilometri, 50 chilometri di strade provinciali. Grazie al presidente Zurlo, che ci ha anche fatto riflettere su un punto: la popolazione da sola non è un gran criterio, ci sono aree in cui le prefetture a livello provinciale, rispetto ai problemi di alcune aree dell'Italia in cui la legalità, le mafie, i poteri criminali sono ben più radicati e più forti, rappresentano dei presidi che hanno un'importanza relativa maggiore, più decisiva di quanto non sia in altre aree del paese in cui questi problemi, per fortuna loro, non esistono. E questo mi sembra un altro piccolo ragionamento, ma concreto rispetto agli altri. Sentiamo altri presidenti. Abbiamo il presidente della provincia di Matera, Franco Stella. Buongiorno presidente Stella. Buongiorno dottor Giannino. Allora, pericolo scampato oppure no a Matera? Io ritengo che il pericolo non sia affatto scampato, anche perché ci sono varie confuse notizie che si accavallano in ogni momento. Al di là delle assicurazioni verbali dei politici a livello nazionale, noi siamo convinti e persuasi che questa iniziativa, da quelle che sono le nostre notizie, sarà portata avanti. E noi ci opporremo in ogni maniera, perché riteniamo indispensabile e importante il ruolo dell'amministrazione provinciale. Anche perché il nostro non è un rifugio di politicanti che vogliono svolgere questa funzione per avere una collocazione. Siamo una provincia che dà un senso alle attività, ma soprattutto con parsimonia e con attenzione sta svolgendo una funzione indispensabile in un territorio che ha 1500 chilometri di strade di competenza, ha 40 istituti superiori scolastici a cui dà servizi e assistenza, ma soprattutto ha deleghe significative nel comparto del settore ambientale e della formazione. Benissimo, questa è l'opinione del presidente della provincia di Matera. Anche qui si dice abbiamo delle funzioni fondamentali e quindi non è utile abolirci. Beh, eccoci tornati in studio. Prima di sentire nuovi ascoltatori e il presidente della provincia di Verbania, Cusio Ossola, che si salva perché appunto confina con uno stato straniero, il professor Boccalatte, facciamo un secondo una riflessione. Abbiamo sentito opinioni di tanti cittadini, opinioni di presidenti delle province lambite da questa ennesima finta, probabilmente, su abolizione delle province. Può essere che sia una finta che serve a assaggiare le reazioni del Lupi, dell'amministratore delle province, e poi a tentare una fondo entro fine anno, vedremo. Ma in ogni caso, professor Boccalatte, lei che ha esaminato in uno studio approfondito abolire le province, le problematiche amministrative e istituzionali, e anche un conto preciso di quanto ci si risparmierebbe sopra, che impressione ha di questo dibattito? Che affidamento possono avere agli occhi dei cittadini queste toccate e fuga con criteri così discutibili come quelli che ancora una volta erano al nostro esame? Qual è la sua impressione? Sì, sono criteri molto discutibili, ma sono criteri in fondo assurdi e che soprattutto fanno passare l'idea che ci siano province utili e province inutili. Su questo bisognerebbe un momento riflettere. Secondo me le province sono radicalmente inutili, perché c'è proprio una sovrapposizione, a mio parere, sovrapposizione scientifica, ideologica, tra l'ente intermedio e le esigenze dell'area vasta. Cioè, nessuno nega che esistano esigenze di area vasta, esistono in tutta Europa, è normale che ci siano esigenze superiori ai comuni. Non è normale, non esiste in tutta Europa un ente locale intermedio. Possono esistere enti diciamo specificamente che hanno il compito specifico di attendere a quella specifica esigenza, ma non enti locali, non enti territoriali. Parliamo poi brevissimamente delle competenze. Quindi poi, aspetti un secondo, la interrompo per dire, cari Topolini in ascolto, scrivetevela bene sulla lavagnetta questa cosa qua. Cioè, la famosa cosa per cui l'ente intermedio corrispondente alla provincia c'è in tutta Europa è una, due punti a capo, balla, punto. Vero professor Boccalatte? Certo, ma certo, c'è l'esigenza di area vasta, ma non necessariamente c'è l'ente. Insomma, andiamo a vedere che cosa è successo in Inghilterra, cosa ha fatto la signora Thatcher in Inghilterra negli anni Ottanta. Ha spazzato via tantissimi enti, ha creato degli enti strumentali e ha risolto moltissime problematiche, voglio dire. Ma poi si parla delle competenze delle province, e qui questo mitico calderone, perché oggettivamente, scientificamente, non è facile individuare competenze che sono ricavate con tecniche normative di intarsio, perché insomma ci siamo ritrovati le province e abbiamo dovuto trovare qualcosa da fare. Perché poi tutta questa cosa di dire oggi, noi abbiamo le strade provinciali e la manutenzione poi delle sedi scolastiche, sì appunto, cioè non mi pare che sia... Ma allora cerchiamo di riassumerle. Anche di toccare un punto, la sua opinione è, se le abolissimo davvero tutte, comprendendole come ente intermedio, senza fare distinzione, le aboliamo, la famosa cosa, ma che cosa risparmiate, solo 100 milioni di nostri gettoni, è vero o è falsa secondo i conti che abbiamo fatto? Non è assolutamente vero, allora, i costi della politica, aggiornati a dati aggiornati a qualche anno fa, insomma ragionevoli, della politica provinciale sono 115 milioni di euro, ma sono solo gli emolumenti per il personale politico. Poi abbiamo tutto il personale che attende ai lavori del personale politico, e qui stiamo parlando di altre centinaia e centinaia di milioni di euro. Dopodiché abbiamo la ovvia conseguenza: se noi smantelliamo le province e riattribuiamo le competenze principalmente ai comuni nell'ambito di un quadro giuridico regionale, è evidente che noi spostiamo il personale dalle province ai comuni e in parte anche alle regioni, e quindi in prospettiva faremo economia di scala sul personale. Ma questo è ovvio, è logico. Cioè, non si tratta solo di ridurre i costi di 100-115 milioni di euro, che faccio presente, giustamente, come ha detto un ascoltatore e come ha detto molto bene il sindaco Chiamparino, guardate che 115 milioni di costo politico li potremo tagliare domani e dopodomani con tutto il personale che sta intorno ai politici, ma domani basterebbe soltanto che a quadro costituzionale invariato noi semplicemente dicessimo: le province sono enti di secondo grado, prima ancora di riorganizzarli completamente, sono enti di secondo grado, quindi non ci sono elezioni provinciali, in provincia partecipano soltanto rappresentanti dei comuni, e così abbiamo troncato subito tutti i costi. Io sono per la linea Boccalatte, ve lo dico proprio, abbiamo esaminato tutti i punti di vista, ora diamo la parola al presidente della provincia del Verbano, Cusio-Ossola, che si salverebbe perché appunto praticamente è attestato su una il Vallo Atlantico che ci difende da questi barbari al nord. No, io faccio un po' di ironia, ma veramente sono esilarato dall'identificare il confinare con un paese straniero un criterio per salvare le province. Ma chiedo, rispetto alla mia linea, quella Boccalatte, aboliamole, perché è una balla il livello provinciale come identificativo europeo di un livello intermedio di governo. Non è così. Detto questo, al presidente Massimo Nobili, che è collegato, chiediamo: in che cosa il confinare con un paese estero vi renderebbe, per così dire, diversi dalla provincia di Fermo o dalle altre province di cui si discute l'abolizione? Presidente Nobili, che ci dice? Innanzitutto buongiorno, e io non sto assolutamente con il professore, perché non condivido nulla di quello che lui ha detto. Io ritengo che le province siano un ente importante nella gestione amministrativa del territorio e delle comunità. Ritengo che i risparmi che il professore elenca non siano dei risparmi veritieri nel togliere ed eliminare le province, quindi posso dire che sono soddisfatto che venga riconosciuto un ruolo alla mia provincia, non tanto transfrontaliero ma quanto di un territorio montano, e quindi di un ente che risponde alle esigenze di un territorio che non ha solo un termine di paragone nei suoi abitanti ma anche nella specificità territoriale. Ritengo che l'ente provincia, che il ruolo delle province sia importante, che bisogna intervenire con coraggio e determinazione nella riduzione e eliminazione di tutti quegli enti intermedi che in questi anni sono stati costituiti per la gestione del ciclo delle acque, per la gestione del ciclo dei rifiuti, le comunità montane e tanti altri enti a livello centrale e a livello territoriale, che pesano sui costi della politica ma pesano anche su un sistema burocratico che va sempre di più semplificato. Io ringrazio il presidente della provincia di Verbano, Cusio-Ossola, la cui tesi è, lo dico con rispetto, certo bisogna partire da qualcun altro, e questo io lo capisco. Quando si è alla guida di un ente c'è qualcosa di consustanziale anche nel ragionare così. Poi c'è la specificità dell'orografia montana rispetto a una provincia, che ovviamente rende le questioni leggermente diverse rispetto a chi ha solo pianura. Però insomma, proviamo a sentire rapidamente ancora uno dei tanti ascoltatori che erano in fila, non riusciremo sicuramente a farli parlare tutti. Sentiamo Angelo da Lodi, sintetico proprio flash. Calapè, che ne pensa Angelo? Ma penso che ha ragione il professore, perché voglio dire, cioè, qui si gira attorno al problema, ma il problema è eliminare i costi della politica, non dell'amministrazione. L'amministrazione possono benissimo rimanere, sono i costi della politica, i consigli provinciali. Angelo Dalodi, anche perché hai la radio accesa e fai l'eco, ma siccome hai detto chiara la tua tesi finale, beh, siamo minoritari però, eh? Angelo Dalodi, il professor Baccalat, il povero gattaccio Giannino non la vedranno sta abolizione delle province, non la vedranno sta grande diminuzione del costo della politica. In questa manovra, la diminuzione del costo della politica, tenete gli occhi e le orecchie aperte voi che state a casa, perché la stanno smontando. E ieri le reazioni all'assemblea di Confindustria, quando se ne è sceso il palazzo sotto il rombo degli applausi degli imprenditori alla dichiarazione del presidente Marcegaglia che la politica è l'unica categoria che non conosce crisi né ha cassa integrazione, e per questo applauso i politici seduti in prima fila erano lividi, torvi, hanno considerato questo applauso un attacco improprio. Ecco, invece bisogna ricordarglielo ai politici che hanno di nuovo perso credibilità come tanti anni fa. Ecco, conclusione di oggi, le province, tentiamo comunque di discuterne e di tagliuzzarle, e devo dire che a questo punto non mi resta che fare i ringraziamenti in regia Paolo Corleone, in redazione Alessandro Marco Tulli, dalla linea al giornale radio, e darvi appuntamento per lunedì prossimo.